Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Guangzhong Yang, professore dell'Imperial College di Londra, è uno dei massimi esperti mondiali di chirurgia robotica. L'ho incontrato all'Università Campus Biomedico di Roma, dove ha tenuto una lectio magistralis in occasione della giornata della ricerca e dove gli ho chiesto qual è la sua visione dell'evoluzione della chirurgia robotica in futuro. Ecco com'è andata. Professor Yang, come cambierà la chirurgia robotica nei prossimi anni? Lei ha parlato nel suo intervento poco fa di 5 o 6 livelli. Yes, so there are 6 different levels of automation. Which is similar to autonomous cars. Ci sono 6 livelli di automazione, come per le auto a guida autonoma. A livello zero abbiamo un sistema di tipo master-slave, dove il robot fa esattamente quello che il chirurgo gli dice di fare. All'estremo opposto, a livello 5, il robot è completamente autonomo, prende le sue decisioni ed è un robot chirurgo a tutti gli effetti. Non so se vedrò questo livello nell'arco della mia vita, ma vederne l'evoluzione è davvero interessante. A livello 1, il robot garantisce assistenza, per esempio definisce aree di non intervento in operazioni di rimozione di tumori. È a questo livello che ci troviamo attualmente. A livello 2 sarà in grado di compiere piccoli compiti, come per esempio interventi di sutura o di anastomosi, la riconnessione dei vasi sanguigni, e così via, con successivi incrementi di autonomia mano a mano che si avanza fino ai livelli 3 e 4. In pratica, al quarto livello, è il robot che esegue l'intervento, mentre il chirurgo opera come una specie di consulente. Professor Yang, ci sono molti aspetti tecnici sui quali il mondo della chirurgia robotica sta cercando di migliorare, ma ce n'è uno in particolare che mi sembra molto affascinante, e cioè il tentativo di dotare questi robot di una certa capacità di capire le intenzioni del chirurgo, una specie di intuito fra colleghi. Quando diciamo capire un chirurgo, parliamo di diversi livelli. Un livello è evitare che il chirurgo commetta errori, e questo garantisce già un'assistenza significativa. Un secondo livello, invece, è capire quando, per esempio, un chirurgo è sovraccarico, quando rischia di essere sopraffatto dal carico di lavoro e quindi di commettere errori. Qui il robot può garantire dei vincoli di intervento e costringerti a fermarti. Un altro livello è invece capire quando il chirurgo necessita di assistenza. Per esempio, quando è occupato a effettuare una procedura di acquisizione di immagini sul paziente, come una TAC, e può esitare o perdere tempo. Qui il robot può aiutare il chirurgo nel fornirgli velocemente le informazioni e le immagini di cui ha bisogno. Più in generale, il robot avrà come obiettivo quello di semplificare il compito al chirurgo. Professor Yang, la chirurgia robotica può aiutare a evitare anche una pratica spiacevole, quella di dover operare un paziente solo per stabilire come bisogna in seguito intervenire chirurgicamente. Yes, absolutely. Senza dubbio. I robot garantiscono precisione e accuratezza, e questo è già un primo aspetto, ma soprattutto estendono la percezione sensoriale del chirurgo, non fino al punto di permettergli il riconoscimento delle cellule ad occhio nudo, ma mettendogli a disposizione diversi strumenti di imaging. Tecnicamente, questo avviene con delle sonde incorporate negli strumenti chirurgici che permettono di eseguire biopsie ottiche, grazie alle quali si ottengono in tempo reale informazioni che, altrimenti, bisognerebbe ricavare offline in un secondo momento. Nei casi di tumore, per esempio, possiamo riconoscere più accuratamente i margini del tessuto tumorale in modo da assicurarci che tutte le cellule tumorali siano state rimosse. Chirurgia di precisione, dopo tutto, è il concetto chiave. Non si tratta solo di salvare una vita, ma di garantire una certa qualità di vita dopo l'operazione e di ridurre il tempo necessario al paziente per recuperare e tornare a una vita normale. Dunque, Yang, stiamo andando senz'altro verso un allargamento nell'uso della chirurgia robotica. Che cosa succederà? Avremo in futuro, secondo lei, tanti robot diversi per ogni tipologia di operazione, oppure pochi robot flessibili, quindi capaci di più interventi diversi? L'attuale generazione di robot è pensata per intervenire in tutte le fasi dell'operazione e in contesti chirurgici differenti. In futuro i robot saranno più piccoli e compatti, più intelligenti e più integrati con sistemi di acquisizione delle immagini. E credo non sia inverosimile che vedremo in azione contemporaneamente 3, 4 o più robot, anche molto piccoli e specializzati. Uno in suture, un altro nella caratterizzazione dei tessuti, un altro nell'anastomosi, eccetera, come dei veri e propri strumenti intelligenti. Quindi, entrando in una sala operatoria in futuro, non vedrete un grande robot sopra il paziente, ma tanti piccoli robot che cooperano, magari anche poco visibili, alcuni addirittura integrati nell'abito del paziente, come gli smartphone di oggi, che stanno in una tasca. Era Guan Zhongyang dell'Imperial College di Londra. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a lunedì. Buon fine settimana.